piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Andate indietro, è pericoloso! Chiediamo un passaggio, facciamo l'autostop. Ci monta il ghiaccio. No, non è consentito. Io non ho mai fatto l'autostop. Io ho paura dell'autostop. Oh, c'è un autobus! C'è un autobus! Venite! Ma venite! No, è il 63, venite! No, avete mai pensato di uscire dal mondo? L'uscita dal mondo non significa una scelta drastica, finale, non mi fraintendete. Parliamo in linguaggio figurato, parliamo in termini simbolici. L'uscita dal mondo è cogliere al volo con la fessura che ci si apre accanto e ci mostra qualcosa di diverso rispetto al percorso rettilineo, se volete faticoso, gioioso, secondo la vostra equazione esistenziale che abbiamo davanti preordinato. La fuga dal mondo significa che una mattina voi percorrete la strada consueta che tutti i giorni vi porta nel luogo di lavoro e quindi a un certo punto però invece di prendere quell'autobus o parcheggiare in quel posto, decidete di prendere un'altra strada e poi non tornate più indietro. O ci tornate, magari una volta ci potete anche tornare. Però in quel momento seguite qualcosa che è scaturigine del vostro istinto, del vostro estro, del vostro improvviso impazzimento. E impazzimento per me significa non uscita verso una zona dell'irrazionale distruttivo, ma semplicemente porsi ogni tanto il problema e la domanda sulle barriere che ci circondano, che molte volte sono fatte di nostri convincimenti, di nostre sedimentazioni, di nostri stati d'animo. Voi direte ci stai parlando in astratto, andiamo più nel concreto. Vi rendete conto che oggi non vengono più reclamizzate, pubblicizzate, immaginate vie di fuga che non siano omologate, standard? La via di fuga cos'è? Il viaggio organizzato. Oggi tutti fanno viaggi organizzati, 2 o 3 volte all'anno comunque, tutte le persone, tutte le categorie sociali, tutte le categorie economiche, bene o male, si possono permettere, perché è giusto che sia così, se questo fa bene, rilassa, il viaggio. E oramai, visto che questi viaggi vengono più o meno organizzati in maniera standard dagli stessi tour operator e le persone comunque che fanno un viaggio poi mettono le foto su Facebook, quindi i loro amici vengono invogliati a fare lo stesso viaggio, sono corredati dalle stesse foto. Si vede lo stesso squarcio sullo stesso pezzetto di deserto, si vede lo stesso monumento, si vede lo stesso fiordo, si vede lo stesso lembo di mare, la stessa montagna, lo stesso luogo storico, la stessa città d'arte, ormai ripetuta, reiterata, logorata da un'infinità di ripetizioni. Per tutti questi che compiono questo rituale passaggio di uscita dal quotidiano, è veramente una fuga dal mondo? No, per me non è più una fuga dal mondo, semplicemente rientrare in un altro schema. Oggi vorrei, attraverso il meccanismo dei 30 secondi, capire quando voi veramente vi siete sentiti di uscire dal mondo. Qual è stato il gesto epico, il gesto drastico, il gesto, se volete, folle che avete fatto una volta nella vita per uscire, per rompere, per fare qualcosa che non avreste mai fatto e che nessuno avrebbe ordinato voi fareste. 800240024, raccontateci di una vostra fuga, una vostra evasione. Potrebbe essere una fuga d'amore, potrebbe essere una fuga da qualche vostro obbligo, potrebbe essere una fuga che avete fatto da bambini, che siete scappati, avete oltrepassato il limite del cancello del giardinetto che era l'unico spazio per voi percorribile. Una fuga che avete fatto da un dovere imposto, da una regola sociale. Una fuga che vi ha dato qualcosa, magari quando si scappa si finisce in un buco nero o si finisce in qualcosa che ci porta ben più lontano rispetto a quello che noi cercavamo. Molte volte le fughe sono salvifiche e ci permettono di vedere in maniera relativa tutto quello che ci lasciamo e dargli il giusto valore. Oggi mi rendo conto che è un po' difficile, ma so che ce la faremo, perché la formula dei 30 secondi è una formula quasi magica, con tutti i benefici con cui uso questo termine per determinare qualcosa che non è sempre immediatamente, facilmente o strumentalmente razionalizzabile in un'esperienza condivisibile da tutti. Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800240024. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate. 800240024, perché questa mattina è venuto in mente di parlare di fuga? Perché la fuga non è più un valore. Oggi viviamo una sorta di cupa triste, soffocante, reiterazione dei confini, dei limiti, degli spazi reclusi, la glorificazione del salame, del formaggio della nonna, della minestrina della bisnonna, e dello squallore di quello che noi vediamo, abbiamo sempre visto dal balconcino di casa nostra, degli stracci bisunti che ci hanno sempre vestito. Una volta tanto pensiamo a qualcosa che rompa con le regole, rompa con le tradizioni, rompa con quella zona confortante che rappresenta quello che è la nostra storia patria, la storia delle famiglie, la storia della nostra vita. Claudia, buongiorno. Buongiorno. Spero che lei mi sorprenda. Pronta, 30 secondi, vada. Ok, allora, avevo 10 anni, ero con i miei genitori in un borgo in Toscana, 100 anime, compreso le galline e conigli, e i miei genitori mi hanno rimproverato e io mi sono voluta allontanare per punirli. All'inizio del paese c'era un grosso albero di castagno in cui mi ci sono rifugiata, c'era proprio un antro. Forse mi sono addormentata e sentivo chi mi cercava, io ne godevo. Mi sono addormentata e sono rientrata perché avevo fame. Allora, ci sono molti elementi fantastici di favola, quasi come Alice entra nel Paese delle Meraviglie, lì è entrata nel cavo di un grosso castagno, sì, che è un albero molto accogliente, il castagno, un albero che ha una sua paternità. Il castagno sia perché ci nutre con i suoi frutti, sia perché ha... i suoi frutti hanno degli involucri spinosi e quindi sembrano che ci allontanino. Poi è bello, ha un bel profumo, il legno di castagno ha un bel profumo. A me piace arrampicarmi sugli alberi, arrampicarsi su un castagno è una vertigine se si va nel momento giusto. Lei da bambina è scappata da una regola dei suoi genitori che considerava ingiusta. Perché l'avevano rimproverata? Non me lo ricordo. Comunque non è tanto importante il motivo quanto è importante che lei realmente... ha compiuto un gesto che in sé aveva qualcosa di epico nella sua piccola storia di bambina. E dentro quel castagno cosa pensava? Sentiva tutti che la cercavano e godeva del fatto che lei fosse scomparsa agli occhi degli altri? Sì. Se lo ricorda, sì. L'odore del legno dentro quell'albero? Ah, guardi, era come il seno della mamma quando ero piccola e mi ci godevo dentro. È andata a rivedere quell'albero cavo negli anni successivi, che in fondo è stata... Non sono riuscita a ritrovarlo, forse è un po' decaduto. Cara Claudio, il problema è che certe fessure si aprono una volta e poi si richiudono. E non è detto che esista ancora quell'albero, esista ancora quel cavo. Se lei lì fosse rimasta, sarebbe magari passata in un altro mondo, in un altro paese. È ritornata, giustamente, per il morso della fame, alla minestrina della mamma. E quindi il mondo che per lei... è stata l'unica realtà possibile, quello delle minestrine della mamma, da allora fino ad oggi. Le è mai più venuta questa tentazione? Ma guardi, a proposito di minestrine, il profumo di certi cibi, guardi, veramente ancora ce li ho addosso. Eh sì, ma si rende conto la scelta? Il profumo di certi cibi che riportano la tradizione, all'alveo della famiglia, alla mamma, alla sicurezza, hanno prevalso. Il profumo selvaggio dell'abbraccio del cavo di quell'albero di castagno era la fuga verso un'altra dimensione, che poi lei non ha più percorso, ma sono scelte che si fanno nella vita. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sei pronto? Vai, 30 secondi. Ok, prima fuga, 17 anni, la piccola Sanremo mi stava stretta, via di Corso a Milano, dove il colpo d'occhio di prospettiva e dimensione dei palazzi mi è sembrato quello che adesso mi può sembrare Dubai. Qualche anno a Milano, ma richiamo del mare, soprattutto dell'odore del sale, e mi ha riportato sulla costa, dove ho incontrato una donna veneta che a sua volta mi ha riportato in Padania, ma adesso assieme, dopo 20 anni di matrimonio, sogniamo insieme, un domani comunque, insieme ai figli, di tornare al mare. Fermo un attimo, a me mi piacciono i veicoli delle sensazioni, che sono degli stimoli sensoriali. Lei mi ha parlato del profumo del sale, del sapore del sale? Sì, in realtà ciò che differenzia proprio la Liguria dal resto del nord Italia è l'aria, è l'odore dell'aria. Da noi 200 anni fa si respirava l'odore di limone, poi si è un po' perso. Comunque l'odore del sale è devastante per richiamare i ricordi, perché qui l'aria a Milano, Verona, adesso dove giro, ha un odore diverso, a parte che è un odore anche non piacevole. Però il ritorno al mare è ubriacante, come l'odore del pane bianco per quelli che scappavano dai gulag, no? Che poi svenivano quando sentivano quell'odore. Quindi diciamo, quando uno scappa, vediamo di trovare delle costanti della fuga, segue sempre un odore, un'usta, come se fosse un cane che cerca una preda, o se è un animale che cerca comunque un habitat a lui più favorevole. Lei segue degli odori quando cambia dimensione o cambia proprio luogo in cui prodursi, perché la sua vita è stata fatta di varie transumanze: la fuga verso Milano, che allora era la metropoli occulta rispetto alla piccolezza, alla provincia di Sanremo, la moglie veneziana, che comunque sia in sé ha una tradizione antichissima di donne legate al mare. Le veneziane passarono nella storia d'Europa per tutto il 600 e il 700 come le donne più passionali d'Europa, del mondo. Dire una veneziana era come dire l'apice di tutte le possibili lussure immaginabili, proprio perché era una città di mare, una città nel suo essere caduca aveva questa sorta di fascino che ogni volta poteva essere l'ultimo passaggio. E poi un bisogno comune è ritornare comunque dove? All'origine? All'origine, ma dove non solo il senso dello fatto è pregno, si riempie di ricordi, ma ovviamente anche la vista, perché la luce che c'è lì, dove non si possono studiare le nuvole, perché è uno dei posti al mondo dove tendono le nuvole a andarsene, quindi c'è il 91% di giorni di sole, per quello ci sono i fiori. Quindi non solo quello, ma anche, quindi abbiamo detto, i sapori, i gusti della nostra cucina praticamente povera e vegetariana. È un richiamo veramente, come però vede alla fine sono tutte fughe, queste, che non sono fughe definitive. Era l'alternativa che oggi c'è ai viaggi organizzati: andare a vedere, respirare, vedere altri mondi, con grande sorpresa, perché oggi, se io me ne vado in Giordania, so esattamente dove mi porteranno: la notte sotto la tenda col beduico, non so con chi, e poi mi porteranno a vedere la città perduta, e poi mi faranno il rituale del tè nel deserto, via dicendo, so già tutto. Quindi non c'è niente che io non sappia già, sono già contaminato. In realtà le sue erano fughe che avevano una motivazione: andare a scoprire qualcosa che non sapeva cosa fosse. Comunque dice bene, infatti il viaggiare da solo per il mondo, per me non so, Marrakesh, quei posti lì, è stato da solo con le scarpe da ginnastica e camminare dove non ha senso camminare, nel senso nei quartieri che non sono rinomati, andare a vedere le botteghe e la gente normale. Comunque, oggi si rende conto che si viaggia per contaminazione, si vede nel profilo Facebook degli amici e amiche dove sono stato, che bello, e fa sì, andiamo 4 giorni e si parte, si fa la stessa cosa. E devo dire, sono 10 itinerari, dei quali non ho visto nessuno, ha fatto niente, sono una persona molto statica, non so, mi è venuto a un certo punto questo blocco al viaggio e non me ne do ragione. Però concludo, non rubo più tempo citando Ivan Graziani: la mia casa in mare con un fiume, no, non la posso cambiare. Non voglio fare il retorico poeta, ma veramente nascere al mare è un casino, perché non si può partire, bisogna veramente tornare a morire lì. Vabbè, oddio, ci si può anche tornare per campare il più possibile. Come prima o poi si muore, dico già che ci siamo. Sì, vabbè, va uno, se non, mica detto se debba ricordare sempre. Ci fermiamo un istante, abbiamo pronte altre persone, grandi fughe, sono pronte. Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800 24 00 24. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate. Time. 800 24 00 24. Ho lanciato questa idea questa mattina perché vedo poco desiderio di cambiamento. Il cambiamento molte volte avviene attraverso decisioni drastiche. La fuga è sempre una decisione drastica. la fuga non è sempre un fuggire vigliacco da qualcosa che non si vuole affrontare. Molte volte è buttarsi e seguire il colpo di dadi che ci viene in quel momento presentato e farsi un salto oltre la dimensione per noi consueta, confortante. Mi stanno arrivando tante citazioni, soprattutto nel gruppo dedicato a Melog su Telegram, di fughe dai social, ma non è esattamente la stessa cosa. Quando ci si cancella o ci si sospende comunque dalla frequentazione di persone sui social, non si fugge da nessuna parte, semplicemente ci si stacca, si continuano a occhieggiare gli altri in maniera magari anonima, poi alla fine si ritorna dentro perché ci manca il contatto, ma si rimane sempre lì. La fuga deve essere corredata, quello perlomeno è la costante dei messaggi arrivati finora dai nostri ascoltatori, da percezioni sensoriali. La fuga è legata sempre a un odore, a un sapore, sia un viaggio di andata che un viaggio di ritorno verso qualcosa che si è perduto. È sempre una sensazione che passa attraverso la nostra fisicità. Quindi pensate delle fughe che vi hanno lasciato tracce, tracce nel corpo oltre che nella vostra esperienza. Sandro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, un piacere. Buongiorno. Allora, 30 secondi per la sua fuga. Torniamo indietro di un bel 25 anni, una fuga in motorino fatta al contrario di Fabrizio che ha chiamato prima, da Milano a fino alle Ligure, per sfuggire un po' a quelle che erano le situazioni, le dinamiche scolastiche, il carico di responsabilità che avevo. Ho preso il motorino senza telefoni perché non c'erano i cellulari all'epoca e affrontato il viaggio da Gorgonzola fino a Finale Ligure, fino a rimanere là per un paio di giorni e poi dopo necessariamente dovermi far venire a prendere. Perché? Perché aveva finito le risorse economiche, non aveva nemmeno i soldi per la miscela per tornare. Ecco, esatto. Non poteva tornare a spinta, ecco, alla fine ha finito i soldi. Esattamente. Ma il motorino già... il richiamo della Liguria è davvero qualcosa che è indescrivibile, anche per chi arriva da fuori, quelli che i Liguri chiamano i foresti, è qualcosa di incredibile davvero, è un'attrazione che arriva al cuore, alla mente, una cosa davvero fondamentale per tutti. Fare un passaggio una volta, non dico che è come lasciare il cuore in Africa, ma è davvero una cosa importantissima, bellissima. Sì, finora sono le costanti, devo dire, adesso non so se dipende dal bacino di utenza prevalente di questa radio. C'è questa sorta di transumanza, andata e ritorno fra Milano e Liguria, Lombardia e Liguria. È una terra di fuga, anche perché è una terra che ancora conserva delle sue ruvidità, che cosa che è molto rara. E poi se ne sente parlare poco nel dibattito generale. Oddio, questa mattina un po' se ne sente parlare, ma non certo per motivi legati al desiderio di fuga. Delfina, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, 30 secondi, non ridere però, seria. Sì, allora stiamo parlando della Francia, un paesino in montagna. Durante le vacanze avevo 4 anni, sono gli anni 70, sparisco con 4 mucche, un pastore che stava passando per la strada e così per un'oretta mi hanno cercato, è stata la mia prima fuga e con tanto disagio e paura dato ai miei genitori. E con un grande spirito di libertà e di aver voglia di fare quello che volevo. Avevi solo 4 anni? Avevo 4 anni, sì. E sì, tu sì. Ti lasciavano sola così per gli alpeggi disabitati? Giocavo nel cortile, sì. E questo pastore è passato, l'ho visto, ha aperto il cancello. Ma su questo ti ha preso così? Uno che gira con 4 mucche, va a spasso con 4 mucche, vede una bambina, prende, se la porta, che sembra Heidi, non so, una cosa. Lo so, però diciamo che erano gli anni 70, inizio anni 70, e sicuramente l'informazione non era la stessa. Ma il pastore ha detto vieni con me bambina, un adescatore di bambine, cos'era questo pastore? No, mi ricordo che il pastore mi ha detto ma i tuoi genitori si preoccuperanno, no, poi all'innocenza, poi il poco di ricordo infatti che ho ad oggi, però mi ricordo... Ma ti teneva, come funzionava? Davanti diciamo il vaccaro con la bambina per mano e dietro le 4 mucche, tranquille? Un pochino sì. Eh sì, sembra strano, però è questo. Mia madre, dopo un po', l'ho visto sbarcare urlando nella struttura dove c'erano queste mucche. Ma se l'hai presa col pastore, tua madre? No, se l'è presa soprattutto con me. Vabbè, ma che era un incosciente l'uomo, uno non prende una bambina se la porta in giro con le mucche. Lo so, però signore che vive in un paesino in montagna, sicuramente c'è lo scrupolo gli è venuto, perché mi ricordo che lui mi chiedeva: ma tua madre si preoccuperà? No, e comunque sono andato con lui, ho finito nel letame, però... Vabbè, le mucche quello producono, oltre latte fanno anche quello, quindi va bene. Vabbè, Delfina, diciamo è stato un tutto... Poi hai avuto altre tentazioni con pastori o con persone di passaggio, dopo, da grande, un po' cresciuta? Da grande un po' cresciuta ho deciso, non so se lo possiamo chiamare realmente fuga, perché è stata una decisione presa, però in effetti 20 anni fa mi sono spostata in Italia, ho fuggito con una persona che amavo e sono venuta a vivere a Roma. Senza mucche al seguito questa volta? Senza mucche al seguito, no, le mucche ormai... No, però aspetta, Delfina, è una fuga se tu lasciavi qualcun altro, se no è semplicemente fai un viaggetto e vai a vivere da un'altra parte. Cioè tu hai mollato qualcuno per questo signore che ti ha portato a Roma? E dai, dillo. Sei incerta. Allora la mia famiglia. Beh, hai detto niente, scusa. Hai abbandonato figli, marito, il calore della famiglia per andare con la fuga d'amore. No, ero una persona libera, la mia famiglia, parlo dei miei genitori. Ah, dei genitori. Sì, dunque, ma qua... niente di trascendente. Non è che eri proprio una bambina però, no? No, ormai ero un'adulta. Ah beh, giustamente, giunto, hai staccato il cordone seguendo una fuga d'amore verso Roma. Alberto! Sei pronto? Buongiorno Nicoletti. Sì, leva il viva voce però, parla bene al telefono. Allora, pronto? Attento? Vai. Ok, meglio? Vai. Sì, meglio. Ok. Ogni 4-5 anni me ne vado qualche giorno da solo, senza meta e senza prenotare alberghi o altro, ma con un itinerario di massima fissato da un tema. Munito di macchina fotografica e di computer, alla fine produco un diario di viaggio che resti a futura memoria. Moglie e figli mi conoscono e mi lasciano fare. L'ultimo quanti anni fa è accaduto? 7 anni fa. Non è ogni 4-5, ogni 7 anni. Detto ogni 4... Però insomma... È saltato un giro. Anziano anch'io, eh? È saltato 7 anni fa, è saltato un giro, è saltato. Sì, esatto. E quando ce l'hai in programma il prossimo? Quest'estate. Ma tu non dici niente a nessuno dove vai, non devono saper niente. Io non dico niente a nessuno dove vado. E vai così alla deriva, senza meta. Prendi vado la macchina. Alla deriva. Vado alla deriva mosso da un tema. E qual è il tema? Fammi un esempio. Per esempio, l'ultima volta il tema è stato terremoti e poeti. Era il periodo, più o meno ne ho fatto uno nel periodo del terremoto in Emilia. Sì. Sono partito dall'Emilia e sono andato poi in Friuli a vedere i luoghi dei terremoti dei passati. Ah, un viaggio a tema. Seguendo anche l'itinerario nei luoghi dei poeti. Ho visitato i luoghi di Pasolini, di Turoldo e alla fine di Ungaretti. Vabbè, hai fatto dei salti abbastanza vertiginosi, però ecco, solo una cosa... Un'anticipazione sul prossimo tema, cioè toccherà anche qualcosa di un po' meno catastrofico oppure ti butti sulle pestilenze, non lo so. No, il prossimo tema penso che sarà un tema di località di mare. Di mare, vai verso il mare, va bene. Anche bocca perché mi piace fotografare e sì, fare, ma poi, fotografie. Questo diario è un diario pubblico, lo vedono tutti o lo tieni nascosto? No, assolutamente. Sì. Assolutamente, è un diario mio che condivido con qualche persona che però non ha velleità di diventare qualcosa di pubblico. Vabbè, diciamo, però lo lascerai postumo, potranno i tuoi figli quando non ci sarai più, ci vediamo che cavolo faceva nostro certo, padre. No, ogni tanto me lo rileggo anch'io per rivivere certe sensazioni, certi momenti. Vabbè, ho capito, tu stai costruendoti, diciamo... il bagaglio dei ricordi da tenere a memoria quando comincia a affievolirsi la memoria. Ci fermiamo un istante, tra poco. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un gigasimmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Melog. Il senso di questa mattina è capire se esistono delle istanze di fuga contemporanee connotate dal momento che stiamo vivendo. Finora ho visto fughe piuttosto nel solco della tradizione, fughe che alla fine non lasciano segni profondi, non segnano cambiamenti, non fanno versare lacrime, non fanno sprizzare di gioia altre persone, insomma, tranquille fughe. E questo conferma il fatto che oggi il senso della fuga si sia attenuato, affievolito. Nessuno vuole fuggire più. Maria, buongiorno. Buongiorno. Allora aspetta, fai partire il timer, 30 okay. Secondi, vai. D'accordo. Noi abitavamo in campagna, avevamo un babbo un po' manesco, gli partivamo bene le sberle, due sorelle, la mia sorella più piccola. Io le prendevo sempre, tutte le volte, mia sorella mai. E le prendevo senza reagire alla fine, perché tanto mi toccavano. Un giorno mi sono stancata, ho preso e ho cominciato a correre come una lepre, correvo e mi nascondevo. Mio padre mi ha preso lo stesso, ne ho prese più di prima, però non ho pianto, l'ho guardato quasi con sfida, sono stata contenta, non siamo mai andati d'accordo, gli ho voluto sempre bene, per carità, però da quel momento sono sempre stata la figlia, diciamo, quella che basti incontrare, ecco. Vabbè, tanto scusa, anche prima era quella che pigliava più botte di tutti, cioè menava infatti, più volentieri te che le tue sorelle. Se non è che ha cambiato la situazione. Prima ti menava senza motivo e poi ti menava perché gli stavi più sulle palle delle altre sorelle. Alla fine era questo il senso profondo. Ma dopo sì, però comunque il fatto che non piangessi e che comunque lo guardavo negli occhi. Mi sembra, Maria, come si può dire, capito? Gli volevo bene a un padre che ti menava. Purtroppo è così. Guardi, mi è mancato. Ma fammelo capire, perché è un meccanismo. Perché ti mancava un padre che ti menava? Mi sembra una cosa totalmente assurda. Guardi, veramente, tante volte ci ho pensato anch'io, non è possibile, però guardi, è una roba strana, però è così. Ma poi dopo hai avuto altri uomini che ti picchiavano nella vita? No, per carità, ne ho scelto uno mitissimo, no, ho scelto un uomo che non... Anzi, la prima cosa che ho pensato, poi ero molto giovane, sono stata fidanzata 10 anni, pensi lei, ma che non urlasse, che non bestemmiasse, non ha alzato mai una mano. Cioè un uomo finalmente decente, nei margini della decenza. Mite, buono, che mi vuol bene, mi vuol bene tuttora, e fine. Certo che i due poli siano una bestia che ti mena, un poveretto, un buonaccione che c'hai vicino, che non ti ricordi nemmeno lontanamente l'incubo del padre, ti manca tutta la via di mezzo, che trovi persone che ti facciano palpitare, ti appassionino. È vero, perché non ho goduto molto la mia adolescenza, nel senso che sono voluta fuggire così presto da casa, vorrei vedere, è per salvarti la vita, perché sai, non ho trovato via di mezzo, diciamo. E le sorelle che fine hanno fatto? Le sorelle? Com'è la mia sorella? Che fine ha fatto? Se ne fregava altamente, lei non le prendeva. Quindi diciamo tu eri il parafulme, ma perché ti menava tuo padre? Sì. C'era un motivo? Perché per la minima cosa, non so, poteva aver sporcato leggermente le scarpe. Ma tua madre c'era in tutto questo? Che parte aveva tua madre? E come? Tua madre che parte aveva in tutto? Cioè una madre... Assolutamente. Ah, stava lì zitta, il padre non l'ha mai difeso. Ma era, l'unica beveva. Volta che mi ha difeso è perché mi è venuto il sangue all'orecchio e basta. Ma questo beveva, c'aveva dei problemi, cioè non è mica. Sì, sicuramente erano anche problemi economici. Ho capito. Non è che tutti stavano bene. Ho capito, ma se uno sbatte la figlia sul muro non è che escono i soldi, non cambia niente. No, infatti, però è difficile entrare nella testa delle persone. Io non ce l'ho fatta entrare nella testa sua, anche dopo quanto sono diventata adulta. Comunque io ero quella che, cioè, se non mi stava bene una cosa io gliela dicevo. Quella fuga è stata quasi liberatoria, perché comunque poi non ho più subito, nel senso che non ho più subito, non diciamo... È ancora vivo, no, tuo padre? Dopo, è ancora, certo, vivo? Non è più menato dopo una certa età. Però voglio dire, non... Senti, ancora vivo tuo padre, Maria? No, è morto quest'anno. E com'è stato quando gli hai presentato l'uomo mite che ti sposavi? Gli è piaciuto, però non più di tanto, credo. Gli è piaciuto più il marito di mia sorella. Che era uno stronzo come lui? Sì. mi sembra logico. Ciao Maria, Pierpaolo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Vai, pronto, 30 secondi. Sì, allora, primi anni 90, io avevo intorno ai 23-24 anni, vivevo in famiglia, ragazzo tranquillo, incontro una a Roma casualmente, a una cena tra amici, una ragazza polacca bellissima, che era venuta a Roma per studiare o fare un master, insomma, di 15 giorni, doveva ripartire. Ci lasciamo il contatto, ci scriviamo tutto quanto, alla fine mi si incassa il cervello. E all'insaputa di tutti, mi ricorderò sempre, un venerdì, dico a mia madre che devo andare a cena in weekend da amici in campagna, non c'erano i cellulari, quindi mia madre è molto apprensiva, non mi cercare perché intanto ci sono cellulari, sto lì, siamo in montagna, non c'è il telefono, piglio una borsetta e vado a Varsavia. Con l'autobus? Ah, con l'aereo. Con l'aereo. Io non avevo mai viaggiato fino a quel punto. Mi ricordi che anni erano, per capire il contesto? Sì, lo ricordo perfettamente, era il 1992. 92, quindi ancora siamo ancora in, diciamo, in un momento... Era appena crollato, diciamo... È un momento di velocissimo passaggio, si cominciava a riguardare un po' il mondo. Infatti, la cosa, a parte la vicenda passionale... C'era l'euforia della libertà, finalmente, ecco. Della libertà. E poi la cosa che, per una persona come me, che non aveva mai viaggiato, in realtà avevo fatto il servizio militare, ma tutto sempre in Italia, non avevo mai fatto viaggi, essere... La vicenda fu veramente come... Ma lei ti ha lasciato il suo indirizzo, ti aveva detto vieni a trovare? No, lei viveva a Varsavia nell'ostello universitario, quindi io sarei stato suo ospite. Era un weekend, quindi le sue amiche andavano tutte, tornavano tutte a casa, per cui avevamo... Quindi passare un weekend con la tua fidanzata? No, ma non era neanche la fidanzata, mi aveva invitato lì. Ma avete già avuto commercio carnale o soltanto una promessa? No, io l'avevo conosciuta a questa cena. Quindi tu seguivi il profumo della promessa, ecco. Guardi, il profumo ancora adesso non lo ricordo, lei aveva, non si può fare pubblicità, insomma, un profumo è che ancora adesso ce l'ho nel naso. Ma dimmelo, che profumo era? Era Armani Gio. Armani Gio, e ancora adesso quando sento questo profumo mi ricordo di questa ragazza. Poi una volta che sei arrivato, raccontaci, perché adesso a sto punto vogliamo sapere. Allora, sono arrivato, a parte il senso di colpa, perché comunque mia madre è molto apprensiva. Vabbè, perché ti frega dalla madre, scusa, a quel punto, ma mi sembra che... Lo so, però io ero anche un po' mammone. Certo, le madri veramente tengono le palle dei figli in una cassaforte. Mamma mia. Allora, praticamente io arrivo in questa città in cui ero... all'aeroporto, un mondo completamente diverso. Dai, taglia, arriva all'ostello, che succede? Perché manca un minuto. Arrivo all'ostello, dopo i primi convenevoli, tutto quanto, è stata una cosa, Nicoletti, una passione, una cosa allucinante. Io non è che avevo avuto tante donne in vita mia, lei probabilmente ero il secondo, il primo. Sì, vabbè, questo lo dicono sempre, il secondo, il primo, sì. Vabbè, dai. E quindi? È stato stupendo, poi anche è durato, perché dopo ci siamo ripresentati. Sei stato smidollato dalla ragazza di Varsavia, e poi sei tornato a casa con, diciamo... Dopo, la domenica sera all'aeroporto ci siamo salutati tutto quanto, sono ritornato a casa senza dire nulla a nessuno. E tua madre ti ha visto esangue e ti ha detto, figlio mio, ti faccio una fettina, te vedo un po' giù di qua. È così è andata. Ma loro hanno mai saputo di questa tua fuga, oppure... No, dopo di questa fuga no, però io poi mi sono... Questa ragazza è venuta a Roma, io poi sono tornato lì, poi sono tornato dopo, ci siamo messi... Vabbè, ho capito, è nato un amore, vabbè, comunque, però hai fatto un gesto molto coraggioso, perché il senso di colpa di tua madre che ti seguiva dimostra che tua madre comunque aveva la prelazione sull'uso e l'abuso delle tue parti basse, e quindi l'hai riconquistata come tuo specifico possesso. Grazie, ciao, arrivederci a tutti.